tappeto e niente, il vite esterno è solo pulizie e le manutenzioni. Come la unità lì? Ho capito. Va benissimo. Quindi anche diciamo gli aeroportuali, quelli che caricano le valigie dentro gli aerei, sono dipendenti di Sogea? Sì, esatto, di quelli ce ne sono un bel po', perché praticamente loro scaricano bagagli, li caricano, poi devono fare il bilanciamento, capito? Cioè all'interno della stiva dell'aereo va bilanciato tutto, capito, il peso, quindi non è che puoi caricare solo da una parte, quindi lavorano anche nelle stive che d'estate muoiono dal caldo, poverini, capito? Con le temperature alte, quando aprono le stive lì ci sono anche 46 gradi là dentro. Ciao Carlo. Sì. Dai, uguale al nostro, uguale identico al nostro lavoro, perché noi dobbiamo fare l'allineamento, diciamo, la sbandatura, vuoi recuperare la sbandatura della nave, e anche da noi in garage non è che stia bene, quando ci sono tutte quelle macchine accese, i motori accesi, la sola macchina è un casino. E vabbè, siamo uno che può soffrire. Va bene, amico mio, mi ha fatto piacere, io la esco per andare a lavoro, sono già le 5. Ciao Carlo, ci sentiamo alla prossima, se poi ci vuoi. Corde OG, ci sentiamo alle prossime, stati bene, grazie del QSO, ho visto che mi ha salutato qualcuno, avanti. Caffa, ciao Carlo, ciao anche Eugenio. Ecco, buonasera. Avanti Black, ciao Gabi. Ciao Tonino, ciao Carlo, buonasera. Buonasera a todos, c'era Eugenio ma mi sa che sta chiudendo perché deve andare a lavorare. Sì, ciao Eugenio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao Tonino, ciao Gabi. Va bene, vai, ciao Carlo, ci sentiamo, che sono già ritardo. Ciao, ci sentiamo alle prossime, se coincide. Ciao a tutti e buona serata. Ciao. E ciao alle prossime. Avanti Gavino. Mi sono qua, sto provando a piazzare una cosa. E sono annoiato. Sono annoiato e quindi adesso faccio un esperimento. Sul Superstar provo a fare un esperimento. Mi fai pure, vai Tony. E ciao Gino, con quel tipo trabacco, dai, ci sentiamo. Non so se anche tu Carlo hai notato che anche quando hai detto su Google oppure da qualche altro posto su Facebook farò vedere certe cose strane, addirittura con la calamita a pezzi di fila accendono una lampadina. Io ci ho provato, non ho tenuta. Ma dei tutorial che si vedono su YouTube o su Google? Una cosa del genere, dai. Ma sono tutte male però. Ho capito, sì, anche io qualcosa già la guardo, quando mi serve, insomma, trovare qualche soluzione, a volte le ho trovate anche buone, tipo sono riuscito a aggiustare il forno a microonde, capito, col tutorial, ovviamente poi un po' di esperienza, capito, e stando attento e seguendo tutte le cose già si può aggiustare tutto. Ma io che ho visto con le batterie oppure con il refile elettrico attorcigliato fatto stirare e mettere calamite quello o quell'altro, cioè ho detto cazzo, se accende veramente la farina io rispondo a corrente anche di poco uno in camera e risparmio, ecco perché l'ho guardato fino alla fine, me lo sono studiato, l'ho fatto, non invece non è vero niente, vabbè, io ci ho provato d'accordo. Avanti tu Gabi, l'hai visto queste fesserie che fanno vedere? No, Betoni. È quello che fanno vedere che accende la lampadina con delle calamite e dei pezzi di filo. Ma quella è roba, lascia perdere che sono mezze stupidaggini. Sono mezze stupidaggini quella roba lì, non è veritiera. Se no tutti quanti avevano fatto una cosa del genere e non avevano pagato luce o correnti. Infatti. Io vabbè dai, io non so neanche a tante frequenza, ho mandato un messaggio anche a Luca, ho mandato a Natalino, ho mandato anche cosa a Gianni, è morto mio suocero, a Mattieri, e domani c'è il funerale, domani mattina. Va bene, per Riccardo. Mi dispiace, l'anziano questo suocero. Sì, 91 anni, ma io il primo aprile, ma il primo gennaio sono andato a fare le ure e tutto quanto. Sì, lo vedevo un po' sciuppato, la verità, però era tranquillo. Parlava proprio così perché è caduto, poverino, soprattutto i pernocoli. Forse lo dicendo anche mia cognata che come ha battuto la testa, un ematoma, cioè ognuno si cerca la scusa appunto che è morto. Io sono quando ho ricordato l'ospedale, giustamente, ho detto, reparto geriatria, fate camera della morte. Perché io tantissimi anni fa ho lavorato con l'ambulanza, quindi conosco l'ospedale con le tasche mie. E quindi quando ci portava il reparto geriatria, addirittura l'ospedale civile Vicchio Piazza Fiume, dopo 2-3 giorni, ciao caput. E infatti c'è durato 3-4 di e ciao. Confermo, anche io, una mia nonna era morta lì col reparto in Piazza Fiume, il reparto di geriatria, ero ragazzino io, capito? Ed è proprio, era l'anticamera della morte, una volta che entri lì non esci più. Ah, se Gianni mi ha raccontato da poco che il padre era ricoverato in geriatria e praticamente poi il dottore, quando è morto il padre, ha detto, caspita, era una bella fibra tuo padre, dice, era morto anche l'ossigeno e continuava a respirare. Ho detto, tu non hai fatto niente. Con carattere mio l'ho verificato subito, immediatamente, sul posto stesso. L'avevi grimmato, pure l'avevi grimmato a faccia. Ma quando devono dire certe cose, no, dai. Ho capito. Quindi in pratica è lutto fresco, dai, avete il funerale allora domani. Sì. Vabbè, dai, infatti è una cosa che facciamo tutti, 90 anni. Vabbè. Ci metterei la firma e faccio anch'io, dai. Avanti Gavino, Gavino sta facendo l'esperimento. Quindi dai, caro. Il Gavino ha detto che stava facendo delle prove col Superstar e sicuramente starà o saldando o magari cambiando qualche contatto, non lo so. E io lo stesso, mia suocera che ne ha 92 sino a, diciamo, a 91 anni è rimasta sola a casa in paese a Bonorva, poi non ce la faceva più a camminare e la casa non si prestava alla sedia a rotelle perché la camera da letto, il bagno ce l'ha al piano superiore, non ce la faceva più, l'abbiamo dovuta mettere in una casa per anziani lì a Giave vicino a Bonorva, sono 4 km, capito? Adesso ne ha 92 e mezzo, ne deve compiere 93, però non è che sia lucida, con la testa è un po' andata, si ricorda le cose vecchie ma del recente non ricorda niente, di quello che è successo per dire un anno fa non si ricorda niente, quello che è successo ieri, se gli chiedi cosa hai mangiato a mezzogiorno non te lo sa dire, capito? Ma se gli chiedi quando era piccola, in che scuola era, allora ti dice tutto. Più o meno ci riconosce quando andiamo a trovarla, ogni settimana ci andiamo, o ci va mia moglie, o ci andiamo insieme, quando è possibile ci vado anch'io. È bello è arrivare a quell'età e rimanere lucidi, capito? Il problema è che molti anziani con la testa poi basta poco e partono subito, così è. Purtroppo la vita è questa, Carlo. Sì, conosco la norma, Giave, perché io ripeto, di andare in pensione, lavoravo per la provincia, facevo attenzione per le scuole superiori, quindi Bonorva ce la facevamo, poi Bonorva hanno chiuso, hanno lasciato aperto Bonorva l'agricoltura, e quindi era fuori Bonorva. Sì, facevo la costruzione per andare poi a Posta Maggiore, poi da costruzione non si passa più perché hanno aperto la nuova strada, che hanno fatto una rotatoria gigantesca. Insomma, Ozieri, tutta la provincia di Sassi ci facevamo, pensa un po'. Noi prima andavamo anche a Palau, poi siccome c'erano troppi chilometri, hanno aperto infatti una sede sia a Tinfio che a Cavuppia. Tutto qua. Ti posso dire una cosa, io sono dal 1° ottobre dell'anno scorso in pensione e mi manca molto il lavoro. Nel senso perché non so più cosa fare, sono sfogonato, devo inventare qualcosa di essere occupato. Sì, almeno se fosse qualche lavoro quanto mio me l'avrei fatto, ma c'è molto di crisi, ho fatto fare. Ti capisco perché il lavoro tuo poi era molto dinamico, insomma, aggiustare, mettere a posto, quindi di colpo ti fermi e è ovvio che non sai più cosa fare, l'abitudine era quella di rimettere a posto tutto, da impianti elettrici, a idraulica, a sifoni, flessibili, scaldabagni e quant'altro, capito? E chi più ne ha più ne metta, a scuola ce n'era di roba da fare, quindi lo immagino. È ovvio che ti devi trovare un diversivo, capito? Se no, capito, è ovvio che ti prende la noia e non sai come passare le giornate. Io a volte, quando sono a casa senza far niente, mia moglie è al lavoro, perché la mattina rimango solo, me ne scendo giù in garage, qualcosa da aggiustare me la trovo sempre, o da mettere a posto, o da cambiare qualcosa, altrimenti, capito, non ti passa la giornata. Lo so, purtroppo è così. Vabbè, pazienza, vai. Infatti mi alzo la mattina a 4:30 io, sono abituato, c'ero 25 anni lì. Io c'era stato prima santo, e poi abbiamo fatto 4 anni con Marella e io ho fatto il lavoro in quel cavolo. Intanto mi devo inventare qualche cosa. Attrezzatura ne ho fino a per i torci, faccio il fai da te ogni tanto, ma non posso più costruire niente perché non ci sta più niente in casa mia. Anzi, devo disfare qualche mobiletto, mi sono rotto le scatole, guarda. Per carità. Va bene, bene, bene, bene, bene. Ciao, leggermente un po' di QRM, quindi un giro sentivo basso, basso poco fa. Tu non so se hai QRM, Carlo. È alto, infatti c'ho lo squelce, l'ho portato in alto, l'avevo portato, prima parlavo con Eugenio, mi arrivava a Santiago 9 e c'erano dei segnali a Santiago 8, capito? È fastidioso, molto alto, ma in questi giorni è così, Sì, anche a me è 9. Abbasso anche un po' lo squelce, poi ci ho fatto che se altro lo abbasso non lo sento, se abbasso il metro lo squelce. Sono curioso di conoscerti, Carlo. Senti, sei una persona abbastanza pagata, tranquilla, serena, hai una calma parlando, guarda. Noi ci conosciamo, ci vediamo un bel caffè. Quando sarà un bel giorno, che capita che si di riposo, io sono sempre, perché sono già in pensione. A volte anche con Gianni ci incontriamo, ci diamo appuntamento a Piazza Le Segni, solo che Gianni ultimamente con la gamba non stava più uscendo. Ce ne andiamo al bar a fare 4 chiacchiere, a prenderci un caffè. L'altra volta abbiamo beccato Antonello Pomponio, che non l'ho più sentito in radio. Siamo rimasti sino all'1 quasi la mattina. In effetti anche io con Gianni andiamo lì in Piazza Le Segni a prenderci caffè. Quindi, giustamente lo sappiamo quando tu lavori, quando non lavori. Quando succede che si libero, ci sentiamo, tanto penso che Gianni il numero di telefono tuo ce l'ha. Sì, Gianni c'ha tutto, se fatelo dare, già te lo passa Gianni, digli che te l'ho detto io. Già con Gianni a volte ci sentiamo con WhatsApp, eccetera, qualche cosa che ci scambiamo, capito, e immagini, eccetera. L'altra volta mi stava parlando dei pappagallini che ha, e ho detto quelli li conosco, ho detto perché, ho detto li ho visti personalmente nel loro luogo natio, perché sono australiani, capito, e io ci sono stato, e adesso c'ho mia figlia che è là, sta studiando e rientra a luglio, e quindi li conoscevo, poi li ho anche visti a casa sua. Da poco ci sono andato da Gianni, sarà prima di operarsi, ancora era coi dolori forti quando ci sono stato, prima di Natale, dai, molto prima. Però ogni tanto così già ci riusciamo ad incontrare, sì, sicuramente qualche mattina, quando sono di sera o magari c'ho turno di notte, che c'ho tutto il giorno libero, come oggi per esempio, non ho problemi. Anche tu adesso avrai un po' da fare con questa questione che mi ha raccontato di tuo suocero, quindi domani avrete il funerale, quindi immagino che avrai tante cose da fare, dai, magari in prossima settimana sicuramente già ci incontriamo, Tony. C'è anche sul giornale la foto del mio suocero, in basso, l'ultimo, qui c'è anche il nome mio, infatti, insieme ai parenti, quindi, sì, non c'è problema, io ti posso dare anche il numero mio qua a baracchino, io problemi non ne ho, perché io metto il blocco a tutti i numeri in entrata che non sono registrati, quindi automaticamente a me si chiede se non me ne fanno, quindi se lo vuoi te lo do il numero mio, non c'è problema. E se no te lo fai passare da Gianni, capito? E ti dà direttamente il mio, perché magari c'è qualcuno che ascolta e poi se le annota la prende a rompere le scatole, io non è che ne do in radio, capito? Quindi già te lo dà Gianni, tanto se lo sento stasera Gianni già glielo dico io di mandarti il mio numero. E tu Carlo, hai lavorato stamattina, stasera c'è libero, così è? No, oggi sono di notte, entro al lavoro alle 21 e esco domani mattina alle 5, quindi alle 5 e mezza sarò a casa. Facciamo 3 notti al mese, capito? Ah, la notte è bello riposare a letto. Io quando ero a Fiume Santo mi toccava una settimana di turno di notte, perché quando abbiamo fatto la torre alta 216 metri il gitto era continuo, non si poteva fermare, la presa rapida, e quindi facevamo 3 turni. Dunque, se mi ricordo bene, dalle 6 a mezzogiorno o alle 2 era, sì, poi dalle 2 alle 8, no, dalle 2 alle 10, poi fino alle 6 di mattina, domani, sì, tre giorni. Quando mi capitava di notte, guarda, era tremendo. Si veniva con la sonnetta a 3-4 del mattino, mamma mia, per carità. Non aveva il freddo, era d'estate comunque, ma si veniva un po' di sonnetta. Tant'è vero, quando uscivo da lavoro, io fino a Santo, più di una volta, uscendo con la macchina, andavo in un parcheggio, mi cercavo, mi abbassavo il sedile e mi addormentavo, perché vedevo che mi si calavano gli occhi, e ma e non mi viene un colpo di sonno, ma ammazzo io, ragazzi, venne. E niente, più una volta mi sono riposato in macchina e sono ritornato a casa alle 11 per il giorno, ma frega niente, capito? Ho capito. No, io praticamente faccio una notte su in videosorveglianza, una notte al Varco Carraio e una notte come stanotte la faccio di pattugliamento. Abbiamo la macchina e praticamente facciamo diverse uscite, controlliamo tutto la perimetrale, capito? A volte c'è il vento che rompe qualche fascetta, perché nella testata nord c'è le reti sono in materiale plastico per le interferenze, capito? Quelle in ferro non si possono mettere, danno fastidio al radar per l'avvicinamento, e quindi c'è tutto materiale plastico, quindi quelle le controlliamo soprattutto quando c'è vento forte. Quindi facciamo tutto il giro e ne facciamo 2 o 3, dipende da quello che ci esce nei target, capito? Poi abbiamo il controllo dei parcheggi, la notte, dentro l'aerostazione, capito? E siamo in 3, capito? Uno su nella videosorveglianza e tutta la notte la prendiamo così. Poi a mezzanotte si chiude il cancello del Varco Carraio perché non esce più nessuno, l'ultimo che esce è il tecnico di Itta che fa la manutenzione, diciamo, degli aeromobili, di quelli che arrivano di notte, Roma e Milano, e quelli arrivano intorno alle 11:15, 11:20, quindi lui un'oretta controlla tutto quanto per la mattina e finisce intorno a mezzogiorno, a mezzanotte e mezzo massimo, capito? Poi una volta che esce quel tecnico lì chiudiamo tutto e si riapre alle 4 del mattino. E io ho visto la maggior parte quando scendevo all'aeroporto, o per partire io a prendere qualche persona che arrivava, che faceva il giro ai militari. Sì. Adesso c'è qualcuno che vuole entrare, perché forse sto lasciando anche poco bianco. Chi vuole entrare su 10? Copi qualche uno, io nessuno, c'è QRM. Penso sia QRM. Ti dicevo Carlo, sì, vedevo i militari che giravano piano piano, controllavano tutto. Sì, ma i militari li avevano messi giusto all'inizio. Adesso passiamo noi la sicurezza interna, capito? E poi una volta passa la polizia, una volta i carabinieri, capito? E poi c'è pure la safety, che fanno anche qualche giro loro. Noi però abbiamo tutto le telecamere, videosorveglianza e i giri di controllo lo stesso. Ne facciamo diversi perché sono circa 8 km e mezzo di rette, insomma di perimetrale, capito? Il sedime è molto grande, quello dell'aeroporto, e per fare tutto il giro completo andando piano massimo vai a 30 km, sono 40 minuti di macchina. Che te ne sembra. Niente, io ho letto il giornale oggi, perché io non lo compro mai il giornale, perché non c'è niente, lo vedo sul telefonino, quello che devo vedere, capito? Niente, l'ha preso la mia figlia, perché c'era il nonno giustamente oggi. E ho letto una cosa che sono rimasto così, ho detto, ma guarda quanto sono pazzi buttare i soldi, 8 chilometri di pista ciclabile a Sassari, per collegare tutte le zone, diciamo, i quartieri. Ma io dico questo, Carlo. Allora, innanzitutto qua a Sassari non ci sono il posto di biciclette, perché ce ne sono molto più Alghero, perché è pianura, non Sassari. A spendere tutti questi soldi, anziché buttare tutti questi soldi qua, perché non aggiusti le strade che sono tutte buche, fanno pietà. O qualche altra cosa che serve a Sassari. Cioè, non ho capito, buttare soldi per la pista ciclabile. Vedo più persone extracomunitarie come il pattino, che è a batteria, o in bicicletta, perché io Sassari in bicicletta se ne vanno fuori a fare chilometri, una bella giornata, ma proprio in città, in bicicletta, ma io, è una vergogna, dai. Guarda, a Sassari lo sbaglio che hanno fatto è quello di aver costruito appunto la pista ciclabile in Via d'Italia e dove sei tu, insomma, perché comunque è una città, Sassari, che non ha vie larghe a parte quelle centrali. Le poche che ci sono, Via d'Italia, da una parte c'è la ciclabile pedonale e dall'altra parte ci sono le rotaie, quindi praticamente la via si è ristretta abbastanza per il traffico. Invece secondo me loro dovevano prendere, il comune c'ha un sacco di terreni, no? Nella zona dell'ippodromo eccetera, e lì dovevano fare una bella pista ciclabile, capito? Aperta tutte le mattine dalle 7 sino alla sera d'estate, la lascia aperta sino alle 9 che ancora è si vede, la gente esce a quell'ora, capito? Se ne vanno a passeggiare eccetera, e dovevano fare così. Invece i parchi li hanno tutti delocalizzati lontano, dove la gente non ci può andare, e quindi alla fine ti trovi la gente che con le biciclette se ne sta in mezzo al traffico, perché poi le piste ciclabili sono anche interrotte molte volte, non sono collegate una con l'altra, quindi devi fare dei pezzi di strada. Questo te lo posso dire perché io le ho girate tutte, perché ho una bicicletta elettrica, ogni tanto mi faccio qualche giro, capito? Soprattutto a primavera la uso, l'estate qualche volta, la mattina presto, la domenica che non c'è traffico, ogni tanto me ne esco a farmi un giro, capito? E quindi so perfettamente dove sono, però è praticamente, scusando il termine, una cagata di pista ciclabile hanno fatto a Sassari. Sì, in effetti dico questo, sono soldi mutati, tramutati, perché vedi queste piste ciclabili così belle, perfette, io che pago le tasse con la macchina, tutti i mucchi, mi rompo la macchina, ammortizzatori, e di tutto mi rompo con la macchina. Infatti una volta che prendo un bel posto, dico me, comincio a bestemmiare, gli assessori hanno detto alle strade che un pezzo di pinguino invece vanno a giocare a carte al comune, e hanno messo persone per a scaldare la porta, la decisione del mazza, l'ho scritta che ci ho finito, ma non faccio niente. Caso strano, dopo tante lamentele, anni che lo faccio, che lo scrivo, che via Cristoforo Colombo, la Veloce, che c'è la Coppa, c'è la farmacia, parafarmacia, eccetera, eccetera, 50 anni non l'ha mai sfruttata. Caso strano, sono passato ieri, stanno iniziando a aggiustarla. Ma ci vogliono tutte le lamentele. Infatti, insomma, questi assessori, responsabile delle strade, eccetera, dove passa? E al largo. Hanno asfaltato via l'Italia due o tre volte, che era già asfaltata, no, riasfaltare è una cosa che è già pulita. Cioè, se invece sono i fossi non tirano frutti nulla, dai, io che ne vergogna. Poi hanno fatto una cazzata più grossa ancora, prima della Bettellina non c'era la chiesa, addirittura questo rialzo che hanno fatto il colpo, si è messo in un lotto sabatta. Quindi ho detto la macchina, non ho messo una colpa, ho preso il colpo, tu. Cavolo la schiena, me ne ho resistito perché ho fatto l'operazione, ci avevo capito. Stiamo scherzando, ma anche questa roba c'è tra le persone. Cioè, metti di segnare allora, scusa, gradino, cioè, lo lasci così, che poi, ma voi mi ha detto, no, poi lo farò tutto quanto, non è vero, non ho fatto niente, non c'è più nessuno. Hanno lasciato così e basta, è una vergogna. questo è gli assessori, meno male io che non ho votato questo sindaco, ma neanche all'altro, adesso non è che non vota nessun sindaco, perché sono tutti uguali, vogliono il voto però fanno niente. Quindi io che avessi già con un sindaco di Colossana che c'era prima, perché io ho scritto, sì, io sono, ammetto il crocifisso nella classe, nell'aula, e il primo che si permette di dirmi cosa lo prendi a calci, è entrato Nicola Santa, caspita, sei morto del voto tu alla chiesa, ascolta, a me non me ne frega niente, io sono nato così, mi ero imparato così, e no, un crocifisso nel legno messo in un'aula a scuola non penso che faccia male a nessuno, se un altro se ne va di nuovo al paese suo, e poi ci siamo pizzicati, alla fine l'ho mandato a quel paese e l'ho anche bloccato. Ho capito. E niente, vabbè, ognuno c'ha la sua di questi sindaci, uno lo pali e sattero uno giù, la dicono. E allora, per carità. Vabbè, lasciamo questo argomento, vai. Comunque, ritorniamo al punto di partenza. Comunque Gianni senz'altro sta riposando, perché non sono entrato fino adesso, sta riposando. Forse di ascolto le 17:20. In attorno ci sarà Natalino. Natalino ci sei, neanche Natalino. Vabbè, siamo in due, non c'è problema, Carlo. Come ero giù in garage prima, mi stavo mettendo a posto un po' di cose. Praticamente avevo messo delle scatole, tutta la roba di Natale, siccome da poco ho disfatto l'albero di Natale che facciamo tutti gli anni, anziché metterlo nella scatola di cartone, poi c'è un soppalchetto sopra nel garage, no? E metto tutto là, ho le valigie, le scatole, però una volta che metti le scatole poi non sai cosa c'è, quindi ti tocca salire su con la scala, aprirle per vedere cosa c'è perché non ti ricordi. Invece mi sono preso di quelle scatole di plastica, no? Di quei box in plastica grandi, li ho pagati intorno agli 8,90 euro, erano in sconto. Me l'ha detto l'altro giorno Natalino, vai da centro casa, come si chiama, Risparmio Casa, dove c'è vicino a 1 euro, e lì li ho trovati, perché li volevo quelli semplici senza ruote, col tappo sopra che si chiudono in maniera ermetica, ci ho messo tutto lì, adesso ne ho 6 di quelli, e mi ho riempito tutto quanto lì, e le scatole le ho buttate via, anche perché poi con l'uso si deformano le scatole, così quando sali sopra il soppalco vedi cosa c'è, prendi la scatola che ti interessa, la tiri, la fai scivolare, te la porti giù e basta. E ho finito stasera, quindi poco fa sono salito, mia moglie a scuola che ce lo prendei in via, hai presente dove sono i geometri, la scuola alberghiera lì a Santa Maria di Pisa, è lì, perché la scuola di via Solari l'hanno chiuso, lo scientifico Marconi, e l'hanno aperto dove erano i geometri. Aspetta, via Solari, allora via Solari c'era lo scientifico Marconi, giustamente l'hanno chiuso perché hanno fatto una impresa, quel cavolo di tetto, hanno fatto casino a prendere più acqua di prima, l'hanno fatto leggermente più giù un po' di aule, capito? L'hanno fatta nuova, piccolissima, perché tra il Marconi e quella nuova che hanno fatto in mezzo, se tu vedi, si vede anche la palestra, tutte quelle tavole sono già marce, inizia era tutto quanto lava di vetro, e l'hanno chiusa, per smantellare la tura e rifarla, anni e anni e anni non l'hanno mai rifatta, e quindi perché hanno messo il secolo femminile praticamente via Porcellana, ma io ci lavoravo in queste scuole, conosco tutta la storia, conosco, quando noi smantellavamo le palmette che c'era il contro soffitto, cominciava a grattare perché era la lana di vetro, ma tu beh, fa male, perché c'era il figlio, un casino. Se non che una bella professoressa che è passata quel giorno, noi sforzando per piazzare, cercavo far passare sotto, niente, ha fatto delle fotografie, Nuova Sardegna ha chiuso la scuola, un casino insomma. E quindi sì, in effetti ci sono scuole che devono essere riprese, come il geometro, dove c'era il geometro una volta, piazza Marconi, automaticamente non c'è più niente. C'è qualche classe però che rimane più indietro, che l'edificio è enorme, se guardi bene, che fa la via Porcellana, dalle città addirittura, e la via a fianco del corso del Policlinico, è una scuola molto grande. E quindi niente, è giusto, ma non è giusto, ma non è un capolo. E tu pensa che c'è addirittura una porta chiusa a chiave, che non si trovava la chiave, che c'era dei quadri elettrici e noi potevamo accedere, però qua rompiamo tutto e accettiamo, poi mettiamo c'era sopra l'uomo, che si è presa, no, non ho toccato niente, allora fa una cosa, e ce l'hanno detto, non ci chiami, non interveniamo più. Ne ho capito, la scuola di Via Solari praticamente, quel padiglione nuovo che hanno aperto è piccolo, lì ci hanno messo il linguistico, poi c'è quello con tutto il tavolato marcio che ne sta scendendo, che è chiuso da anni, però adesso hanno chiuso anche l'altro, proprio l'Istituto Marconi, l'hanno chiuso perché i muri di tramezzo delle aule li hanno fatti con un materiale isolante che contiene amianto, fibra di vetro e amianto, tant'è che quando hanno messo le lavagne interattive non le potevano attaccare al muro, perché se tu ti metti a trapanare, quella polverina che c'è e contiene amianto se ne va in circolo nell'aria, te la respiri ed è cancerogena, quindi non si potevano bucare le pareti, hanno dovuto acquistare dei supporti per le lavagne interattive che sono enormi, no, sono degli schermi enormi in ferro, capito, e praticamente il supporto costa più della lavagna interattiva. Dopo che hanno fatto quello è andata l'ASL e hanno detto che la scuola era da chiudere, quella va tutta risanata, cioè devono togliere tutti quei rivestimenti lì delle pareti divisorie delle aule e praticamente la devono tutta bonificare, ma faranno prima a buttarla, a raderla al suolo e a ricostruirla nuova anche quella, e quindi li hanno spostati, adesso non so se quella è via, non è via Cedrino, dove c'è quella specie di palazzone alto a Santa Maria di Pisa, capito? I geometri c'erano lì, praticamente adesso hanno fatto lo scientifico. Sì, i geometri, c'è ragione, quella era gialla. E infatti c'è, a parte lo scientifico, c'è anche l'Ipsar, lì, fa parte anche l'Ipsar. E quella lavagna, la lavagna lì, se ci si chiama lavagna lì, me l'abbiamo presa anche noi, avevamo la manutenzione noi, installarle noi, anche a Calapoleno abbiamo attrezzato. Calapoleno è un ente privato veramente, però ci pagava a parte, capito? Solo in caso ci fa 100.000 euro all'anno, perché tutti sono a pagamento quelli che vanno là. Lì c'è dall'asilo, alle elementari, alle medie, alle superiori. Quindi. Poi sì, Via Solari purtroppo, quello che vedi tu, tutto lo tavolo, insomma, marcia eccetera, quello era il tecnico femminile. Io penso c'erano 25 anni, io quando ci ho portato noi, c'era la scuola che faceva la scapa. In un giorno abbiamo cambiato 80 lampade e 60 radiatori, penso un po'. Infatti il giovane ha detto, e cosa c'è la scuola a buio? No, veramente sono minimo 6.000 lampade là. Abbiamo fatto solo una parte, ce ne vogliono ancora. No. Adesso sospendete e si fa più là, perché adesso la provincia di sotto non ce l'ha. Vabbè. A poco facciamo tutto così, abbiamo fatto. Poi ci sono andate quelle famose lampadine a LED che abbiamo tolto prima del basso consumo, che per dell'equipo bruciava subito, diventava la carità. Niente, le magistrali, una bella scuola grande, enorme. Tutte le scuole erano le superiori, Carlo. Per me era comunque, ripeto, passatempo, perché non lavoravo solo nella scuola, in un giorno potevo fare anche 3-4 scuole. E quando andavo fuori in un paese ero l'uomo più felice del mondo, ti spiego perché. Quando lavoravo a Sassari, tu non ci credi, non iniziava a finire un lavoro e ti chiamavo perché eri a Sassari. Ah, devi mollare tutto e andare là. Vado all'altra scuola, dopo 10 ore ti chiamavano, non molla tutto, ma che cavolo, ti ha rotto le scatole. Era invece andavo fuori in un paese, non ti cercava nessuno. Una volta andiamo al Ghero, ai giovani. Arriviamo noi, ci facciamo aprire il cancello, arriviamo con la macchina. Chiudo la macchina, vado a aprire il sportello e mi chiudo il telefono. Cosa c'è già la tua amica? Come si fa a prendere un figlio della macchina e vai a Monorva? Hanno messo la colla nel catenaccio del cancello, nel scritto della scuola dei ragazzi. Tu pensa, ogni viaggio, dobbiamo fare i rochi al Ghero e poi viaggiamo. Un bel po' di chilometri sono da Alghero andare a Monorva. Sono 30, 80, 80 e 80, 160 poi a ritornare. Ma il bello è perché vedi, cambiate sempre a scuola, facevi quello, facevi quell'altro, non ero fisso, invece le altre scuole facevano ceramentisti, oppure l'edilizia, ficiano la soliamo, poi si farà domani. Ogni volta che finivi, scrivevi tutto quello che c'era da scrivere, che abbiamo messo, e poi lo chiudevamo e inviavamo la provincia. Vabbè, era un lavoro veramente, mi è sempre piaciuto, la verità, sto 25 anni contentissimo, mi sono volato 25 anni, credimi, io avrei fatto, mi piace un bel lavoro, purtroppo. Beh, te l'ho detto, il tuo era un lavoro dinamico, insomma, perché gli interventi, nelle scuole c'è un sacco di roba da fare, dagli impianti elettrici a altre riparazioni, cancelli e così via. Immagino che sì, una volta che ti fermi poi di colpo ti manca da fare, insomma, perché durante l'anno lì magari d'estate lavoravo di meno nelle scuole perché magari l'attività didattica è sospesa tutto il periodo estivo, giusto la manutenzione ordinaria, magari qualcosa da rivedere prima dell'inizio, no Tony? Ma ti dirò, d'estate lavoravamo forse anche di più, e ti spiego perché. Perché eravamo assoluti, non c'erano, c'era qualche biella, eccetera, però noi dobbiamo fare una verifica da là alla testa. Il piatto mitico è il più basso che c'è, perché tu devi controllare corridoi, sgabuzzini, aule, uffici, e di tutto quanto c'è. Ogni anno dove c'è un punto luce, controllare se c'era luce. A parte quello, tutti i bagni. La verifica generale, e se avete funzionato il pulsante, sì, ok, aspetta, metto la scala, salgo su, come è galleggiante, si sta deteriorando, bisogna cambiarlo, cambiamo il galleggiante, e insomma, devi fare tutte queste manutenzioni dalla azienda, questa la pallina com'è, sembra mezzo partita, io cambiamo, la via che si cambia, e quindi come quando fai d'estate fai molto molto di più, ma per me era un gioco, ripeto, era contentissimo, perché ti svaghi, capito, a me mi volava la giornata, dalle 7.30 alle 4.10 ci berravo, ce ne andavamo via, e io fratello me ne volevo rimanere altri 3 anni, no? Ci ho pensato dopo, fratello, perché me l'ho chiesto, rimani altri 3 anni fino a 70 anni, allora me ne vado in pensione. Mi pulito lì, in 6 macchine, mi vado 3 anni oggi, e invece poi mi sono pentito e ho detto, cavolo, cosa ho fatto? Vado in dimissione, ero in pensione, e invece. Era troppo bello, quindi si lavorava molto di più, noi trovavamo anche altri parecchi colleghi nostri che stavano tingendo le aule, ed esatto lo facevano, e chi aggiustava le tapparelle, chi aggiustava le serrature, insomma un po' di tutto. Era comunque, eravamo 240 operai, diciamo. Lo immagino, eravate, ma tu facevi parte di una società che prendeva l'appalto delle manutenzioni delle scuole, così Tony? No, noi eravamo la ditta della provincia, una SPA, partecipata alla provincia, anziché chiamare un tempo fa un vanacore e dare un soffio oppure una famiglia grossa e fare questi lavori, no, si è creato questa Multis SPA, capito? Una ditta SPA della provincia. Dice, infatti poi io ho seguito tutte le riunioni a Palazzo Sciutti che dicevano, ma noi abbiamo un introito di 2 miliardi. Hanno messo in un anno per venderla 2 miliardi per 2 anni, mi è sua, se l'ha comprata, ma scusa, se abbiamo guadagno di guadagno noi, le scuole sono nostre. Facciamo una cosa, ci teniamo alla Multis, e quindi la vita è la nostra, e automaticamente l'introito poi si dividerà. Tanto è vero che a Fignano ci facevano anche dei pranzi, insomma, spuntini, eccetera, eccetera, insomma, non sono fatto male, la verità, dai, non c'è da sputarci sopra perché, ripeto, io non sono in pensione, così ho augurato anche che gli altri miei colleghi andranno in pensione. Perché se chiude quella ditta domani, che lo Stato appunto pensa che noi lì spendevamo al mese, dunque, 500-600 mila euro al mese. Non è sciocchezza, perché ti spiego, tra tutti gli operai che la paga, i mesi, tutti i mesi che avevamo, facciamo anche le strade, abbiamo 400 chilometri di strade con legge studiatore, già l'operai che tagliamo l'erba, operai che aggiustavano l'asfalto, guardarei, poi tutte le scuole, 3 sedi, Sassari, Olbia, Tempio, insomma tu da là alla Z, gestione calore, c'era di tutto insomma Carlo. È un'impresa fiori all'occhiello, perché poi hanno chiesto chi voleva entrare, doveva fare un corso, doveva fare. Adesso poi. Noi siamo stati fortunati, la prima volta abbiamo firmato, ci siamo licenziati da Lince, stavamo in questa federazione, abbiamo finito il primo santo e siamo entrati qua, la verità. Ma ti dirò, non veramente, io sono stato se me li chiamo oggi che oggi io vado a corretto, purtroppo non mi chiamo che sono già in pensione. Vabbè, è bello giocato mi volava. I miei mi volavano e anche gli anni sono volati. Aspetta, facciamo un attimo di bianco che mi sa che c'è stato qualche break, vediamo chi c'è, avanti chi vuole entrare sul 10. Allora la propagazione mi è sembrato proprio la parola break, magari qualcuno che voleva entrare e poi ha cambiato canale. Sì, sì, sì, in effetti la, tutti, molti istituti scolastici ce li ha tutti la provincia, capito? Hai detto bene, era la provincia e penso ancora la provincia che si occupi sia della manutenzione delle scuole e di tutto il resto. Sì, una bella società quindi quella, penso ci sia ancora, Tony. Tu te ne sei andato, non so come l'hai lasciata. L'ho lasciata che stava sempre andando e migliorando, quindi la coperta che mette nuovi. Sì, in effetti c'è ancora perché vedo che la macchina in giro. Sono tutti furgoni giganti bianchi, belli, c'è sito molti. C'hanno un logo che è strano. Sembra quelli delle SOS. Vabbè. Un secondo che mi sposto, due minuti che apro la porta del cortile e non termino, Carlo. Vai, vai, così anche io ne approfitto un attimino, dai, ci sentiamo tra un attimo. Io sono tornato. Ehi, adesso mando un messaggio a Gianni che ti mandi il mio numero, Tony. Che non vuol dire Gianni, mi sto mangiando un gelato biscotto, il cucciarone. Dico che stai mangiando i bomboloni alla crema, Gianni. No, che proprio sputtana. No, un gelato mi sto mangiando. Però te lo voglia, io mangio che libero gelato. C'è sempre il piano qua. Ho capito, dai. E poi sono voci buone, guarda. C'è sul canale 11 una propagazione, segnali di 9, capito, si sente gente da tutte le parti e addirittura si sente anche sul 10 qualche scia di quella propagazione. Il 10 è più silenzioso, vai sul 9, vai sull'11, è un casino assoluto oggi, si sentono segnaloni forti. Però so, non è che la propagazione sia soltanto d'estate, no? Io ci propagano, ma io ho visto anche d'inverno infatti. L'altro sentivo la Francia fortissima, canale 41. Poi la Spagna non ne parliamo. Questa è il cazzo della propagazione, tranne quando piove allora c'è tranquillo. Adesso stavo guardando i messaggi su WhatsApp, praticamente domani sera un collega mi stava dicendo ci sono circa 300 passeggeri che sono tifosi del Cesena, perché c'è Cesena Torres, che praticamente sono a rischio perché pare che si scontrino le due tifoserie, l'altra volta era successo casino. Praticamente, capito, quando è così mettiamo qualcosa in più di sicurezza, qualche collega in più, poi vabbè c'è anche la polizia, però con questi esagitati a volte succede sempre casino, l'altra volta hanno rotto i bagni, capito, in aeroporto, hanno fatto un sacco di porcherie, birra dappertutto, al bar dentro, al bar fuori. Adesso io dico una cosa, se devi bere, bevi e poi butta, no, le bottiglie per terra rotte, bottiglie, bicchieri, tutto il vetro rotto, capito? Fanno sempre casino quello che vogliono loro. Aver messo una bella sorveglianza, in Spagna è perfetto, entra uno o due, fate casino, se ne trovate adesso pagate. Insomma stiamo scherzando. Ma io non sono tifoso niente del calcio, perché se uno vuole la partita, vuole la partita non a fare il casino, tu non sei un tifoso, tu sei un terrorista che ti piace fare casino, no, non esiste proprio. A me mi è disgustato il pallone quando avevo 12 anni, ci invita questo amico nostro a vedere la partita di pallone a casa sua, che era un tifoso di questa squadra, che non mi ricordo, penso proprio che non è un tifoso. Nel senso che questa squadra sua ha fatto un gol, tu non ci credi, questo per era un versante. aperto la porta finestra, atterrato, si è aperto fuori, a voce alta, no, no, no, no, ma scusa, ma sono così pazzi i tifosi. E io dovevo essere tifoso di una squadra, ma stiamo scherzando. Da lì mi ha disgustato il pallone, ma si va a pure, ma guarda, se fosse per me avrei bucato tutti i palloni, c'era Biglialucci. Ma infatti a volte c'è gente esagitata che non lo so se va lì per vedere la partita o apposta per fare casino. Il problema è che domani praticamente c'è il Pisa e partono tutti su quel volo Ryanair, capito? Quello delle 17. In più poi magari ce n'è qualcun altro che va su quello di Fiumicino delle 19, insieme ci sono i passeggeri dell'Inate, quelli del Malpensa, poi c'è un altro Malpensa di Ryanair, quindi alla fine ci sono circa 500-600 passeggeri, in mezzo a questi ci sono un centinaio di tifosi che fanno casino, capito? E infatti al mio collega gli ho detto sbucciatevela voi, io già c'ho il turno di notte alle 5:30 smonto e domani non ci vado, neanche dopo domani, ho detto divertitevi voi. Vabbè. No, ma tutta gente viene sopra a fare casino, non è per vedere la partita, però non è più un tifoso, quindi che ci vuoi fare? Io guarda TVTO, non sono tifoso di quasi niente, nessun sport. Il mio hobby è, mi piace la pesca, mi piaceva la moto fin quando rimane catteggato, perché io in vita mia, 49 anni di patente, non ho mai avuto un incidente. Questo è imbecille, ha visto il semaforo rosso, che era un rosso sbagliato, dice lui, il sole negli occhi, e è passato con rosso, e mi ha preso in pieno, io mi sono trovato di corpo davanti alla macchina e ciccia, non potevo neanche frenare, comunque. Infatti mi ha chiamato il medico legale, dopo ho detto i documenti, 23, se non ce la faccio, ho detto l'avviso, vuoi anche la terra clinica, la carta della clinica che ci ho fatto la domanda, ma ci faccio 10 giorni, io 23 devo andare da lui, se non ce la faccio ciccia, la rimandiamo qualche giorno avanti, così almeno mi pagano. Io Carlo, te credimi, sono stato 5 mesi male, che non auguro neanche al cane più cattivo che c'è al mondo. E quindi 5 mesi sono 5 mesi, so io cosa ho passato, le fratture che avevo, a parte quello delle costole con l'ematoma al polmone. Ho il maleolo al piede, per carità, non parliamo tutt'oggi ancora la mano che si è per il sacco del trapizio, tra pubblici indice che non riesco a svitare la bottiglia dell'acqua, fate il conto. Insomma, già mi ha contato bene, e ora mi sono venuto le botte, non voglio più sapere niente, basta. Ho capito. Sto scrivendo a Gianni, così ti manda il mio numero di cellulare, capito? Sempre che risponda, perché mi sembra strano, lui solitamente a quest'ora a volte entrava, e così vediamo un po' se magari una mattina ce ne andiamo a prenderci un caffè. Non è perché no. E Gianni penso sarà ancora fuori casa, sì, però qua ti aspetta ancora. Non so, prova a farlo, lo spinto io, ma poi se stai riposando voglio disturbarlo, no, non è presto. Sì, magari è presto, in effetti sono le 17:45. Lui solitamente dalle 6:30, alle 7:30, a volte sta anche alle 8 già in radio. Io non è sempre, mi stasera perché sono solo soletto e mia moglie rientrerà intorno alle, finisce alle 19, mi ha detto, e quindi sarà qua intorno alle 7:15, 7:20, tempo di arrivare. E poi anche io ceno presto oggi perché alle 8:15 esco, perché alle 9 devo timbrare, capito, l'ingresso, e niente, poi già ho anche la radio in macchina e a volte riesco a sentire, sino ad Alghero riesco a sentire quasi tutti, sento Gianni, Claudio, Roberto, a te ti sento diciamo sino a tutta la quattro corsie, e anche Giulio lo sento sino alla 4 corsie e poi non lo sento più, lo sento basso basso, se non c'è QRM eccetera, magari anche Giulio l'ho sentito più in profondità, diciamo, però lui molte volte modula con pochi watt e quindi è anche per quello, se no Giulio ha una buona antenna pure, è una 5 ottavi e quindi già via affogato il palo, ci avrò se non si mette di parole anche per dirti. Quindi c'ho il palazzo a fianco, però non manco voluto neanche parlare perché non c'era sotto, se no guarda ero più alto, purtroppo mi devo accontentare di così e basta. Io sono un poco 5 watt di uscita, quindi non posso pretendere altro. C'ho una Venom come antenna che la darò per 5 ottavi, però ripeto, è un'antenna così, non è mica un'antenna buona. Ha avuto la Mantova 1, sperava più bene. Ma comunque mi accontento perché insomma sono riuscito a sentire Alghero e mi hanno sentito anche a me, è già qualcosa. La zona in cui sono, Carlo, io sono prima del Ciacamino praticamente, capito? Quindi sono io, sulla strada non mi vede a me assolutamente, entrare all'interno deve entrare, c'è un cancello, è tutta una proprietà privata. Quindi sono tanto di telecamera e cancello, quindi no, sono molto dentro. Comunque io, dalla posizione in cui sono io vedo Sassari, quindi per la Croce sono aperto, per Sassari sono aperto. E c'ho l'ostacolo di tiro che quando l'antenna era qua dentro il cortile, io non sentivo Protorse, proprio Pio Pio, adesso ero 100 miglio spostando l'antenna, i 3 miti non sono stato, non è stato rimosso. Anche Alghero io manco a parlarle, invece adesso riesco a sentirlo, è già qualcosa. Tu sei una bella posizione, c'è una bella posizione, Roberto è una bella posizione, sono tutti in bella posizione, sono io che sono proprio Pio Pio, pazienza, ma non mi posso lamentare, dai, ti faccio sentire a Carlo. Riversari Gianni, Natalino, Giulio, tu, Gavino, già qua mi arrivano tutti al massimo del segnale, proprio perché sono anche in alto, ho l'antenna sopra, diciamo il mio palazzo è di 6 piani, capito? In più c'è sopra al terrazzo una casetta che era un vecchio vaso d'espansione, c'era dell'impianto di riscaldamento che adesso non lo usiamo più, no? Quindi c'è il tettuccio con una portina, il tetto è coinventato e io là mi sono attaccato al muro, ho attaccato praticamente 3 bracci che mi tengono il tubo grosso e poi ovviamente quello telescopico ho portato sull'antenna e il tubo me lo sono fatto io, ho utilizzato tubo quello in ferro zingato, ho fatto i fori, ci ho saldato i dadi, capito, e poi ho messo i bulloncini e me lo sono realizzato io, perché quelli che vendono si rovinano subito, quelli come materiale scadente, questo è bello grosso, pesante, capito, e l'ho tirato su coi guanti, pian piano tiravo, prima ho fissato l'antenna col cavo, l'ho tutta isolata bene, capito, e poi l'ho tirata su piano piano, la tiravo e adesso ho l'antenna che è lunga più di 5 metri, più 2, 4, 6, sono 6 metri di tubo, insomma, e sono bello in alto, addirittura l'antenna mia supera tutti i ripetitori che ci sono della palazzina, quella della Telecom, hai visto, tra via Dau e via Livia, ci sono i ripetitori lì, io sono più in alto di quei ripetitori. Sì, cosa per la zona. Ripeto, tu sei anche vicino alla zona dei ripetitori della Linke. All'inizio di via Salvatore Dau c'è un condominio grande, quello dove c'è in mezzo la piscina, capito, proprio all'inizio di via Dau. Lì sopra loro hanno dato il permesso per installare dei ripetitori, non so di chi siano quelli lì, però dice che gli danno 25.000 euro l'anno per aver messo questi ripetitori e loro praticamente con questi 25.000 euro l'anno si pagano le manutenzioni del giardino che hanno, della piscina, capito? Sono soldi che fanno comodo. Cappa, a te ho sentito la voce, mi sembra troppo veloce, ho schiacciato. Chi è che vuole entrare su 10 avanti? C'è propagazione. Sì, però bene, perché mi ricordo anche da prima la parallela, che poi l'ha veduta la casa, va bene, dopo cavalcavia. Volevo mettere un cartellone e devo andare, non so, allora, 600.000 lire o un milione, quant'era? All'anno, no, al mese, pardon. E poi la tranquillina non ha voluto, poi da quell'altro, e bucare, fare quello, quell'altro, fa carezzare, invece vai, comunque. Sì, anche quelli che mettono i ripetitori di telefonia, eccetera, che sono macrodotici, qualcosa che la danno certamente la manutenzione del palazzo, perché è giusto che sia così, dai. Anziché uno pagare il condominio, non le paga. Lavaggio delle scale, la manutenzione delle camere della pagina non c'è fumio, no? E l'ascensore di riscaldamento, sono sudi che sono parecchi quattrini, Carlo. Uno sembra così, ma so dire. E con queste agevolazioni, non sono tutti i palazzi, ma diciamo i palazzi più che sono in evidenza, che possono mettere queste robe qui, giustamente farò bene a farlo, cavolo se farò bene. Quando insomma hanno visto l'affare non gli è sembrato vero e avevano lo spazio, capito? Il terrazzo tanto era condominiale, era grande e l'hanno utilizzato così, ci fanno un po' di quattrini. Da noi invece non va bene, perché noi abbiamo un tetto che ha praticamente quattro spioventi, sono due spioventi diciamo più larghi e due più piccoli, perché ha forma quasi rettangolare il palazzo, e in mezzo c'è un piano di calpestio dove è tutto incatramato, capito? Lì adesso ci metteranno il fotovoltaico, capito? Perché stiamo facendo il 110, sono partiti già i lavori, infatti nella parte interna dal cortile abbiamo tutta l'impalcatura, da noi hanno quasi, cioè hanno fatto già tutto il cappotto, stanno finendo di intonacare, hanno detto che forse entro gennaio, massimo ai primi di febbraio, ci devono cambiare tutti gli infissi con gli avvolgibili nuovi, finestre, porte finestre, così dalla parte mia dovrebbero finire, capito, i lavori entro fine gennaio, metà febbraio, dopodiché dice che fanno lo spiovente del tetto prima di togliere l'impalcatura da quella parte e poi metteranno l'impalcatura dall'altra parte e devono iniziare tutto, capito? Quindi siamo in mezzo ai lavori noi ancora. Comunque sia 110 che cappotto sono due lavori ben diversi, però devono sempre cambiare diciamo la soglia della finestra perché aumenta. Allora, se fanno il cappotto giustamente ci va la profila di mattoni, ci va il polistirolo dentro o lana di roccia, perché quella non fa male, allora ripeto è vietata, dove metteranno il polistirolo, quello che sia. Mentre invece il 110 ci va all'esterno applicato il polistirolo talmente duro che di uno spessore di 10-12 cm, che l'ho visto a casa di mia, che sono andato a trovare le punti, ricca e pezza, quindi è pezza polistirolo. E quindi niente, è un lavoro che poi automaticamente ti risulta la soglia della finestra che è più corta, perché aumenta di spessore, capito? O capotto, non capotto, so che ti aumenta. E quindi ricrea tutte le soglie. E poi anche della porta di esterna, finestre, quello che c'hai. E poi niente, le spallette lo fanno tutto loro, insomma, è buono questo 110 perché giustamente allora, qui ci ha messo scontato 10.000 euro, tutto questo l'ha messo lo Stato il governo, capito? Un po' l'hanno tolto, se l'hanno ripreso, ma io non capisco per nulla questo lavoro, questo 110, guarda, è buono perché dà molto lavoro, perché lavoro non ce n'è, e non so quante imprese in tutta Italia che stanno svolgendo questi lavori, se quasi bene dopo cavalcavia il palazzo di Ferraris, che quando va di la Porottose c'è già il ponteggio, hanno fatto il 110 anche lì. Sì, l'ho visto, non so quale ditta sia, la nostra, la ditta è una ditta di Milano, si chiama la Vitruvius, c'ha mezzo Sassari, praticamente ha un sacco di palazzine, capito? Ce ne sono, ne ho visto a Santa Maria anche, la loro ditta, in queste zone qua, in via Mastino, hanno le mani in pasta dappertutto questa Vitruvius, è una grossa società per azioni, praticamente gli operai sono tutti, non sono sardi, ce ne sono siciliani, calabresi, ce ne sono egiziani, tutti mischiati, rumeni, ne hanno di tutti i tipi, perché prima sono venuti una ditta, hanno fatto l'impalcatura, poi quelli quelli sono andati via, adesso sono venuti questi che stanno, hanno messo il capotto termico e adesso stanno facendo le spallette delle finestre nuove. E praticamente le soglie delle finestre ce li hanno tutti rotti, capito? Quindi quelli li dovranno sostituire. E hanno fatto praticamente l'intonaco, quello fino fino, e penso che tra massimo qualche settimana ci cambieranno gli infissi. Lo spessore ti aumenta della facciata, però la finestra praticamente non è che si rimpicciolisce, perché la parte della spalletta